Io ho fatto un intervento un altro giorno in consiglio e ho chiamato il passante un evergreen, perché praticamente siamo già passati per una campagna elettorale durante la quale il passante è stato protagonista. Adesso è ritornato alla ribalta, ma per me è soltanto propaganda, perché io non vedo assolutamente le possibilità per migliorare un'opera come quella del passante, un'opera che sappiamo benissimo che è dannosa per i cittadini e le cittadine che abitano lungo il tracciato, perché si trovano praticamente l'autostrada e la tangenziale a meno di 10 metri, ma è dannosa per tutta la città, perché sappiamo benissimo che l'asse autostrada tangenziale è responsabile del 40% dell'inquinamento atmosferico. Per cui allargare l'asse autostrada tangenziale è un danno per tutta la città. Tra l'altro ho interrogato l'amministrazione praticamente dal 30 aprile. Ogni venerdì ho posto in question time una domanda sulle migliorie che vogliono fare, visto che si parla di migliorie. Il 27 aprile è stata stralciata dall'ordine del giorno della giunta la delibera sul passante, perché appunto vogliono pensare a migliorie. Io ho interrogato per avere non solo aggiornamenti su queste migliorie che hanno in mente, ma volevo anche un commento sulle dichiarazioni che sono state fatte quei giorni dal presidente di ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, e dal segretario della CGIL, che in poche parole ci hanno detto che il passante non serve a risolvere i problemi legati al traffico, ma a creare lavoro. Quindi ci troviamo di fronte al solito discorso che la creazione di posti di lavoro è in opposizione alla tutela del territorio e della salute di chi lo vive. Avevo chiesto delle risposte alla Giunta, ma mi è arrivata a domande diverse soltanto una laconica risposta, in cui l'assessora Orioli dice che non intendono rinunciare alla realizzazione di un'opera così importante per la regione e il paese, e però crediamo importante cogliere tutti i margini possibili per migliorarla. E adesso interrogerò ancora, perché domani ho una seduta di consiglio di question time, e voglio capire quali saranno queste migliorie, perché per me è impossibile che ci possano essere migliorie. Le soluzioni per migliorare il traffico è quello di migliorare il trasporto pubblico, completare il servizio ferroviario metropolitano, ma la cosa ancora più importante, secondo me, è diminuire drasticamente lo spostamento delle merci su gomma, perché sappiamo che sull'autostrada circolano moltissimi tir che sono anche aumentati con l'incremento dell'e-commerce. Ecco, invece sull'altro tema, quello del restyling del Dall'Ara, si parla molto, insomma, si è parlato anche dei 40 milioni che dovrebbe mettere il comune in un accordo con i privati. Qual è la tua posizione? Ma dunque, anche su questo ho interrogato più di una volta l'amministrazione, perché ok, c'è il progetto di restyling dello stadio, mi sembra ora che i tempi siano maturi per una ristrutturazione, assolutamente d'accordo. Quello che invece mi inquieta un po' è la costruzione dello stadio temporaneo. Si prevede, ma io questo l'ho letto dai giornali perché non riesco ad avere una risposta dall'amministrazione, si prevede di costruire questo stadio temporaneo praticamente vicino al CAB, che è il centro agroalimentare di Bologna, uno stadio di 16.500 posti. Viene chiamato temporaneo, ma non sarà temporaneo, nel senso che sarà smantellato solo in parte e un'altra parte resterà in essere per, si dice, calcio femminile e per gli eventi. Allora, il costo per questo stadio, chiamiamolo temporaneo, si aggira dai 12 ai 20 milioni, su un giornale ho letto 12, su un altro giornale 15, su un altro giornale ancora 20 milioni. Io penso che questa è veramente una cattiva idea, perché va bene che lo stanziamento dei 20 milioni viene fatto dal Bologna Calcio, però noi sappiamo benissimo che dei 100 milioni per il restyling del Dall'Ara, 40 milioni sono del comune, quindi il comune potrebbe investire meno nella ristrutturazione ed evitare di consumare suolo praticamente vicino al cabbio. Mi è sembrato la costruzione di questo stadio temporaneo mi sembra praticamente un modo per resuscitare Fico, così si va la partita femminile, si va all'evento e dopo si va tutti a Fico, perché non se ne vede il motivo assolutamente.